sì. In principio verranno solo le cazzate, un mondo fatto di perdite quanto inefficaci. E poi arrivò il lume della ragione col suo microfono come scettro e cambiò le cose. Nacque Radio Pazza, nacque questo progetto musicale radiofonico, virtuale, pirata, e da allora nulla fu più lo stesso. Direi che prima era meglio, ma comunque non ci lamentiamo. Allora, voi state ascoltando Radio Pazza e io sono J. Grex. Facciamo partire quindi questa prima puntata del 2008, anno nuovo, quindi è scalette nuove con un brano fuori di testa. Loro sono i Spiattini. Я не кидал никого никогда, я говорил только да. Иногда голодал, иногда пропадал, безутешно рыдал, не рыгал, потому что не бил. Татухи не бил, концы не рубил, отца уважал, не лажал. Телок домой провожал, не обижал, на прощание руку жал. Я не воровал, не перебивал, не забивал, не забывал, не забивал. Чё ты передний привал? Перешло? Я не понимал, не покупал в киоске Беломорканал. О, ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Таки-таки-да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Таки-таки-да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Да-да. Я не боюсь никого, ничего, кроме себя самого. Во! Айкидо, айкидо, антидо. Я здоровый молодой, я веду здоровый образ жизни. С утра делаю зарядку, я ездил в смятку. День по распорядку, непоняток, не люблю, люблю порядочек, когда мне папа подарил девятку. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Таки-таки-да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Да-да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. I'm the never girl can't stop. Ла-ла. Hey! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. I'm the never girl can't stop. Ла-ла. Но время учило, время лечило. Жестокая судьба на меня зубы точила. Продал кроссовки Фила, купил текилу. Текилу бил, бил, бил, телок лупил. Кого хотел купил, кого не хотел добил. Мало, с утра мало, меня пятерка не догнала. Хотя пары и горят, врут, фонарят, фонарят, врут. Это спрут. А снобы и лекарства меня не прут. Вот. Проворные воры и бандиты. Иди ты. Одними разговорами не будем сыты. Заманили меня мусорозами, заминировали, изолировали. Профиль вас фотографировали. Стоп. Оп, оп, гоп, стоп, оп. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Таки-таки-да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Таки-таки-да-да. Ты кидал. Таки-таки-таки-да. Ты кидал. Да-да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. I'm the lyrical gangster. Ла-ла. Hey! La la la la la la la la la la la la la la la la. I'm the lyrical gangster. La la. Tutu. Allora, questo era un vero inno alla gioia. Loro sono i Piatnica, come dicevo prima, sono un gruppo russo che conosco non tanto per le mie origini quanto grazie al Fatinsen del Bosco Magico Production, il mio pusherman musicale di fiducia. Ma andiamo avanti, tanto tempo che sono lontano da questo microfono, tanto tempo che sono lontano anche da internet, al punto che praticamente vedo adesso le varie modifiche, i nuovi post che sono stati pubblicati sul blog di Radio Pazza. Saluto quindi Museum con tanto affetto, mi fa estremamente piacere vedere che ha registrato una nuova puntata di Radio Prisma, spero di vederne una nuova di Radio Mantica e tante altre cose. Mentre io mi scuso con tutti quanti voi, visto che negli ultimi tempi mi sono approcciato a questa radio, diciamo, con l'inguaribile ottimismo di un dopo. Non è la maniera migliore per fare le cose, chiaramente, si finisce per non finirle mai e iniziarle mille. Mi dicono che sono pazzo, ma questa radio lo è e lo sono anche chi l'ascolta, quindi per voi Crying, buona pazzia a tutti. In the face of death on the masthead, hold your breath through late break and disaster. Makes the news of the trite. Codes, feelings meant to be global, like coke in the nose of the nobles. Keeps it. Riots in the rain, she's on fire in the music tanks with no red lights in sight. Got you. Ragazzi, erano i TV on the radio. Mi sono accorto ora che praticamente ho fatto un errore madornale, ho detto che era 2008 mentre siamo da un bel pezzo nel 2009. Si può dire che questa è la mia concezione personale del tempo. Se lo dicono una ragazza, sicuramente questa risponde che palle un altro. In verità sono solo un chiacchierone anche un po' sbadato, e siccome, ecco, forse è meglio dedicare il tempo alla musica anziché alle mie disquisizioni amene. Ecco, sì che abbiamo, ecco, abbiamo Björk. Cosa penso di Björk? Che è tanto bravina e che ne dovremmo avere tutti una a casa. In questo caso l'ascoltiamo con un brano fantasmagorico, Oceania. Sorprende sempre la capacità di Björk di fare cose sempre più grandi nel tempo, pur rimanendo sempre così piccina. Non prive di stupore sono anche le mie scalette, con questi passaggi di brani assolutamente improbabili. E se vi è sembrato strano questo appena fatto, dovete sentire quello che segue. Allora, siccome io da tempo desidero avere una casa su un albero, un po' per difendere il fanciullo che c'è in tutti noi, vuoi per mandare un messaggio di ecosostenibilità e amore del pianeta Terra, vuoi per aumentare la vita sessuale anche. Sapete, tipo le ragazze piacciono queste cose, tipo... Bello, dove abiti? Io sono a casa sul albero. Ma davvero? Allora, quindi io... In onore di tutto ciò, vi passo Orchestra Baobab con questo strepitoso brano, Jimma Jimma. Jimma Jimma, vai burfallo, malikum bafal, nduga Jimma. Jimma Jimma, Jimma Jimma, vai burfallo, malikum bafal, Jimma Jimma. Bye, Murfalo, Malikumba Falo, Jundel. Jimma, by Burfano, Malikumba. Oi, Daga Jimma, Jimma Jimma, Yamadan Jin, Nanu Jimma, by Burfano, Malikumba Val, Chonde. Piacerebbe un baobab nel proprio giardino, proprio là in mezzo tra il basilico e la piantina di ganja. Comunque sia, a tutti voi amici ascoltatori, io vi consiglio vivamente, andate su internet, digitate casa sull'albero e andatevi a visitare i vari siti che trovate. Sicuramente qualcuno di voi potrà trovare qualcosa di sua ispirazione. Mentre sempre su internet, se vi va, io vi consiglio anche un film. Il brano che vi voglio proporre adesso, infatti, è tratto da una colonna sonora, da un'opera franzosa che si intitola Ognuno cerca il suo gatto, una storia romantica dove c'è una fanciulla che perde il proprio gattino e per ritrovarlo, beh, scopritelo voi, il film secondo me merita di essere visto ed è sempre interessante comunque sia scoprire qualcosa di nuovo. Dicevamo quindi questo è tratto da Ognuno cerca il suo gatto. Lui si chiama Bonga, con un brano che fa parte della categoria delle canzoni con il titolo impronunciabile. Aluke non golo fuo gamu bingi kiaze mwe ne wando kala benyaba e mengondo ya mie namona mwenye suya weza mona mwenye mona mwenye suya weza mona mwenye Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba E mengondo yamye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kanunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kanunga ngumba Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba E mengondo yanye Mona mwenye Weya weza Mona mwenye Kalunga mwenye Sambi wangi pana mona Gamu valele Mwenye wando kala benyaba E mengondo yanye Mona mwenye Ngangumba Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Ngangumba Zambi wangi pana mona Gamu falele Mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo ya mye mwenye Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Kalunga mba Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Kalunga mba Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba E mengondo ya mye Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Gamu valele Mwenye wando kala benyaba E mengondo yanye Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Kamu falele Mwanyeze wando kala benyaba E mengondo yamye Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Aspetta, allora facciamo le cose proprio allora, con gran classe. Mi faccio prendere da questo momento di romanticismo. E allora rimembro la prima volta che mi sono innamorato, il mio primo amore, quello alla fine più intenso, quello più vivo, sicuramente perché non corrisposto chiaramente. Voglio dire, amarsi in due è facile, amare da solo è molto più complicato, molte più responsabilità e meno soddisfazioni alla fine. Comunque, questo è un brano per cui lei moriva, mentre io morivo per lei. Sister Nancy con Bam Bam. Tell me say one thing Nancy can't understand. One thing Nancy can't understand. One me them a talk about me ambition. Say so one me who them a talk about me ambition. Come me say some of them a ask me where me get it from. Say some of them a ask me where me get it from. I told them no no it's from creation. I told them no no it's from creation. Bam bam ayo, what a bam. Ma io mi sono provocato da solo, le mie orecchie hanno sentito la musica in levare e ora non mi posso più fermare. Con l'aiuto del Fatins e con il potere dell'oregge, a me le orecchie. Allora il Sid con Psychedelic Kingdom. Die Welt. this one love dream. Your voice has a lesson I feel again. For woman station I had kept from place. Powdy and house and heart has blooming bait. On Christy Fowdy and deiner Seite steht. Für jeden geht ne Sonne auf. Wir sind oder haben's tierisch drauf. Hey, ernähren uns nur von Erdbeeren und dem Champagnerbäder. Wir lieben's extra stark. Kicken gehen im eigenen Park. Sonntags nehmen wir hin die Wanne. Nicht mit jedem, aber jeder. People feel sick, yo. Sunny faces rising. Smile away them tears, but knowledge will be dying. Water cool up, yo. Running through the earth, good soil. Make it true, ganja farmer, them sing. Psychedelic kingdom come. The wicked them a run, run, run. Psychedelic kings and queens. Join me in this one love dream. Getting woman's inspiration. Close your eyes twice. Face mushrooms grow on time's roof. When we wake up in relations, whom our base move the size of dust in space. Secure, sunny faces rising. Smile away them tears, but knowledge will be dying. Water cool up, yo. Running through the earth, good soil. Make it true, ganja farmer, them sing. Psychedelic kingdom come. The wicked, them a run, run, run. Psychedelic kings and queens. Con Bach ci eravamo presi l'impegno, per così dire, di non ripeterci mai. Volevamo che la nostra scaletta musicale fosse sempre varia e senza troppi, insomma, doppioni. Succede che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Io ho dei gruppi a cui tengo in particolar modo, che cerco sempre di ficare qua e là, no? C'è Fred Buscaglione, DJ Graf, e ci sono pure loro, i Sid, li abbiamo già passati qualche puntata fa. E poi d'altronde allo reggae non gli si può dire veramente niente, secondo me è una musica con una proprietà unica, praticamente riesce a trasformare la fattanza in produttività, che vi assicuro che di questi tempi è una merce rara. Allora, ma andiamo avanti. Allora, io in questa puntata mi sto rendendo le cose veramente difficili. Allora, loro sono i... Oddio, è impossibile. Comunque il brano è All of Me. Thank you. nostro co- sulla nostra cooperazione. Oh, ma che è sta roba? Cioè, mi sto facendo un giro qua sulle radio. Io, a dir la verità, sono un vecchio ascoltatore, un vecchio lupo di radio, ma ammetto anche che, ecco, cambiamo un po', che è un po' di tempo che non ascoltavo più, e al punto che, ecco, ho deciso di farne una mia. Francamente, ragazzi, ve lo dico io, DJ Drex, in giro c'è un sacco di zozzeria, quindi voi ascoltate tutti, che ho... Ascoltate, dicevo, tutti quanti Radio Pazza. Essendo stato lontano per un po' di tempo dalla radio, da questo microfono, mi si sono accumulati una serie di brani, di canzoni che volevo mettere sulla radio, che adesso sono diventati praticamente un numero spropositato. Io, poiché non mi riesco a fermare, che sono ingordo, ne aggiungo uno appresso un altro, e qua mi è venuta una lista di brani che difficilmente riuscirò a far entrare in una puntata unica. Peccato, farò quello che posso, magari comincio a dire meno cavolate. Comunque, questo appena sentito era Wilson Pickett con Fire and Water. Siccome che, ecco, non riesco a darmi freno, siccome che non riesco a fermare, ora ci ascoltiamo, questo è un titolo che dà veramente soddisfazione, ci ascoltiamo The John Spencer Blues Explosion con Can't Stop. Step. qui chi vuole smettere? Io posso continuare ad andare avanti ancora a lungo, ve l'assicuro. Mentre ora vorrei dedicare due parole all'artista che segue. Allora, si tratta di Offlag Disco Pax. Tempo fa mi è arrivato un carico, una vagonata di musiche da certi amici di Bologna e vi ho trovato questa cosa, due album diversi, entrambi molto belli. E cosa si può dire? Non è elettronica, non è rap, non è pop, forse tutte queste cose messe insieme. Io vi ho scelto il brano forse quello più musicale, quello che forse più orecchiabile. Comunque attenzione al testo, io vi consiglio vivamente di andarvi a cercare le altre cose, perché questo ragazzo ha una poesia molto graffiante e, come dire, racconta le cose come non lo fa praticamente nessuno. Molta autoironia. Questo è, dicevo, Flag di Scupax con Luigi Miranda. Era un periodo in cui ognuno faceva il suo mestiere. Il partito faceva il partito, la federazione giovanile faceva la federazione giovanile, l'Arci l'Arci, i fonici i fonici. In quel circoletto ricavato nella sezione del quartiere Pappa Gnocca, il partito metteva i soldi, la federazione giovanile i giovani, l'Arci, gli spettacoli. e nessuna distorsione, ricevete il segnale forte e chiaro. In verità è proprio Flag che è distorto questo brano, che è stato appositamente, diciamo così, rovinato, come il mangianastro che si mangiava le nostre cassette. E ecco, questa volta un po' per forse camuffare, per nascondere i segni di una rosicata, insomma, Oploga gioca un po' a fare questo personaggio deluso e invidioso, mentre poi in verità, insomma, a mio avviso merita tutto il nostro rispetto. E comunque rimaniamo nel tema della poesia, e mi viene in mente un altro, diciamo così, poeta pazzo. Si tratta di Remo Remotti, un vecchietto qua di Roma, uno con una figlia travagliata, si è fatto anche il manicomio, penso, non sbaglio. Chi è che non se l'ha fatto di questi tempi? Dicevamo, Remo Remotti scrive poesie, poesie che poi gli capita anche di musicare. Va in giro a suonare con una banda o accompagnato semplicemente da una chitarra. In questo caso c'è un fantastico lavoro elettronico accompagnato a questa sua poesia, che segnala anche una sorta di rottura generazionale, ecco, diciamolo, chiamiamolo in questa maniera. I tempi sono maturi e tutti quanti noi una volta, almeno nella vita, abbiamo detto questa cosa: mamma Roma, addio. Negli anni 50 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via. Anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma del dopoguerra. Io allora a 20 anni mi trovavo di fronte a questa situazione. Andai via da questa Roma, anni 50. E me ne andavo da quella Roma addormentata, da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, quella Roma del volemo se bene andiamo avanti, quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei sali e tabacchi, degli erbaggi e frutta, quella Roma dei mostaccioli e caramelle, dei supplì, dei lupini, dei maritozzi con la panna, senza panna, delle mosciarelle. Me ne andavo da quella Roma dei pizzicaroli, dei portieri, dei casini, dei casini, delle approssimazioni, degli imbrogli, degli appuntamenti ai quali non saremo mai puntuali, dei pagamenti che non vengono effettuati, quella Roma dei funzionari dei ministeri, degli impiegati, dei bancari, quella Roma dove le domande erano sempre già chiuse, dove ci voleva una raccomandazione. Me ne andavo da quella Roma dei pisciatori, dei Vespasiani, delle fontanelle, degli ex voto, quella Roma della circolare destra, della circolare sinistra, delle mille chiese, delle cattedrali fuori le mura, dentro le mura, quella Roma delle suore, dei frati, dei preti, dei gatti. Me ne andavo da quella Roma con gli attici, con la vista, la Roma di piazza Bologna, di via Veneto, di via Gregoriana, quella d'Annunziana, quella eterna, quella di giorno, quella di notte, quella turistica, la Roma dell'orchestrina Piazza Esedra, la Roma di Propaganda Fide, la Roma fascista di Piacentini. Me ne andavo da quella Roma che ci invidiano tutti, la Roma Caput Mundi, del Colosseo, dei Fori Imperiali, di Piazza Venezia, dell'Altare della Patria, dell'Università di Roma. Quella Roma sempre col sole, estate, inverno, quella Roma che è meglio di Milano. Me ne andavo da quella Roma dove la gente urinava per le strade, quella Roma fetente, impiegatizia, dei mille bottegai, di Iannetti, di Gucci, di Ventrella, di Bulgari, di Sciossa, di Carmignani, di Avegna, quella Roma dove non c'è il lavoro, dove non c'è la lira, quella Roma del cuore di Roma. Me ne andavo da quella Roma della Banca Commerciale Italiana, del Monte di Pietà, di Piazza, di Campo di Fiori, di Piazza Lavona, quella Roma che c'è la sigaretta, prestami 100 lire, quella Roma del CONI, del concorso ippico, quella Roma del Toro che portava e porta ancora il nome di Mussolini. Me ne andavo da quella Roma di merda! Mamma Roma, addio!